Toro. Grazie a queste favorevoli combinazioni planetarie sarà possibile ottenere molto. Se sei in coppia da tempo, ti verrà voglia di una piccola trasgressione. Questo desiderio di tornare a vivere l'amore in maniera un po' più avventurosa sarà molto prepotente e si estenderà anche nei prossimi mesi. L'importante è ritrovare la voglia di stare in mezzo agli altri. Finalmente sei libero da circostanze che possono fare del male. Per qualcuno è possibile anche un cambio di lavoro che può giovare in termini di serenità interiore. È tempo di viaggi, divertimento, di relax. Acquario. Solo se trascini una storia senza senso e ormai legata all'abitudine, potresti non risentire di questa meravigliosa situazione astrale. I nuovi incontri sono valorizzati, le storie d'amore nate negli ultimi mesi vanno forte e questo è solo l'inizio di una fase di grande interesse che sarà ancora di più valorizzata dall'estate. In ogni modo, certi legami vanno rinvigoriti. Da qualche tempo stai rimettendo in discussione tutto. Io vorrei chiedere alla qui presente Elisa Bressan, che ci ha accompagnate per l'ultima ora e mezza, dandoci anche un sostegno effettivamente vocale, almeno nella prima mezz'ora, com'è stata questa esperienza? Esatto, com'è stata la tua prima volta, Elisa? Emozionante. Però... non dice niente di più, non si scompone. Emozionante, va bene, sì. È emozionata.